Campionati subwoofer Magni Turzero, Cozzo Carbonaro. A casa chiusa dalla stazione di Bivio d'Acri e a loggia che 15 anni fa ci facevano i 18 anni Turzi a Corretto, presentano l'educazione scesa in terra sfavillante, la verve cosentina aggrippante, in Giovanni e Nicola. Giovanni è ormai disperato dopo la disavventura omosessuale capitata a Nicola e decide di andare a raccontare tutto ai genitori di Nicola, anche se ha un po' di paura del padre del famigerato Nicola, che si chiama Nicuzzo Formaggiaro, e viene accolto con proverbiale gentilezza dalla madre di Nicola. Signor Giovanni, mi aprite che vi devo parlare. Sì, vieni, non rompi il coglione assai. Permesso. Assettati, cacca, mo ti chiama Nicuzzo. Nico! È un attimo, come vieni? Ti rompo di domenica. Buongiorno, signor Mico, vi devo parlare. E su mia spolo dove è sciuto? Che cazzo vuoi? Mi stai mangiando un pecore? Iara, è pure come un topo per morto, mi sa. Signor, mi è venuto per parlare di vostro figlio. Oh, gioia, come è cangiato ultimamente. Dammi notizie, Giovanni, non stavo vedendo più. Si metti pure a chi l'ha visto, ma dopo che hanno visto la foto l'hanno bruciata. Aiuta, non hanno cercato. Signore, mica signor maresciallo Rock. Praticamente Nicola ha avuto un incontro che l'ha cangiato la vita. Se mi so con Maria Sol. No, chi ci vai appresso io, signor Mico? Allora è diventato un magnaccio. O un travestito. No, Mico, purtroppo è brutto. Praticamente si è fidanzato. Con un professore di francese, un noto riccione che fa un stilista. Era Madonna. Puttana Eva, lo sapeva che grande fratello lo rovinava a tutti. Ma lo già dov'è? Salvalo con la tea. Giovanni, sotto il garbato invito di Nicuzzo, si reca nella casa di stilista dove lavora Nicola. Nico, che cazzo sta facendo qua il Benedetto? Oh, carissimo amico mio, mi serviva giusto un modello per questo vestito stile Charles Vuitton. Ma che bitto, ma vi vedete che i genitori tuoi sono preoccupati? Ma chi? Quei rozzoni antiquati. Oh, neanche a parlare, ma non ci vengo manco se mi paghi. Adesso vai con George che ti fa provare il vestito. Ciao bello, mi chiamano George Ponte di Messina. Oh. Ma che stai facendo? Non ci voglio vedere la cuccia. Aiuto! Ah! Vieni, ti faccio provare il ponte. Uè, chi te muti con tua mamma? Giovanni! Giovanni riuscirà a sfuggire dalle grazie di George detto al ponte di Messina? Lo scoprirete nelle prossime puntate.